Gianluca Nicoletti. In questo video andiamo ad analizzare la possibilità che esista una specie di volta, di cupola, un campo elettromagnetico sopra nel cielo, che funge da limite della Terra e pertanto evita che possiamo uscire da essi. Il governo nordamericano realizzò una serie di operazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Secondo me è stato per trovare questo campo magnetico, questa volta. La prima spedizione statunitense nell'Antartide probabilmente dovevano arrivare alla cupola che si estende nel cielo dal suolo dell'Antartide che circonda la Terra. Dopo l'operazione Head Jump sono state fatte altre spedizioni nell'Antartide da parte del governo statunitense e crearono immediatamente la NASA per cercare di collegare questo. In pochi secondi hanno pensato di creare un'agenzia spaziale per farci credere che potevamo uscire dalla Terra e coprire che esiste questa cupola. Nel 1959 firmano il Trattato Antartico, sottoscritto da 53 paesi al giorno d'oggi. Certo, ci può anche stare, ci può essere una grande cupola sopra la Terra. C'è una serie di telefilm fantastici, stanno andando su Netflix da un annetto circa. C'è questa storia della cupola, improvvisamente una cittadina viene isolata da una cupola che taglia a metà una mucca al momento che esce dalla Terra. Bellissimo, ma c'è differenza tra quello che è il soggetto di un telefilm e quella può essere una realtà proclamata come scientifica. No, non c'è più nessuna differenza. Esistiamo in questo momento e stiamo vivendo nell'epoca della massima contraffazione, che è un'epoca anche divertente, se vogliamo. Sembra di stare nel paese dei balocchi. Tutto è possibile, tutto è costruibile, ogni realtà può essere rappresentata, rievocata. E poi la cosa più incredibile è che tutta l'umanità ha diritto di parola. Bellissimo, un grande momento di democrazia. Però ci rendiamo conto di cosa anche si è fatta l'umanità, di quanta ignoranza, superstizione, sottocultura e arcaismo esista ancora nell'umanità. E viviamo in questo momento, ci è dato vivere in questo momento. Questo è il risultato dell'interconnessione totale di tutta l'umanità. Tutti possono mettere mano nella realtà, quindi la realtà diventa strumento di tutti, oggetto di tutti, diventa tavolozza in cui tutti possono scrivere, in cui tutti possono dipingere. E quindi a questo punto ogni cosa è possibile e immaginabile. E questo infatti è il grande tema del momento. Da ieri i titoli dei giornali non parlano altro che delle fake news. Ci possono essere i russi che con intento predatorio e proditorio cercano di condizionare l'equilibrio del mondo, anche del nostro paese, immettendo notizie false. Ci sono persone che una volta che hanno in mano il giocherello, il divertimento, sanno più o meno smanettare rete, se la cavano con Photoshop, possono far credere qualunque cosa. Tanto c'è sempre qualcuno che crederà qualunque cosa. Anche se facessero vedere la foto, non so, dell'uomo con la testa d'elefante, del bambino a sei zampe, tanto qualcuno ci crederebbe, tanto sarebbe talmente credibile che sarebbe difficile confutarla. Pensate che la scienza, che in fondo mestamente, miseramente, con mille difficoltà, oggi è il motivo per cui io parlo in un microfono e voi mi ascoltate, che se voi state male andate in ospedale, vi mettono le mani addosso e bene o male ci sono buone probabilità che riescono anche a guarirvi. Se vi accade un incidente, un problema cardiaco, qualcosa non va nel vostro corpo, prendono un pezzo e ve lo cambiano. Quindi abbiamo una speranza di sopravvivenza maggiore a quella che abbiamo sempre avuto da quando esiste l'umanità, da quando 20 milioni di anni fa abbiamo cominciato a scendere dagli alberi e camminare. E questo viene tutto messo in dubbio da signori che si svegliano la mattina e dicono che è tutta un'invenzione, tutta una bufala. È più facile essere ingannati che credere di essere stati ingannati. Quando una ragnatela di bugie ben confezionata è stata distribuita poco a poco alle masse per più generazioni, la verità sembrerà del tutto assurda. Ed i portatori di questa verità, dei pazzi, furiosi. La storia è scritta dal vincitore. I fatti sono decisi da chi controlla il nostro ambiente. In questo mondo di menzogna universale è nostro dovere individuale avere il coraggio di mostrare e diffondere la verità. La storia è scritta dai vincitori, sacrosanto, lo dice questo signore Dino Tonelli, ma lui dice che in realtà tutto il mondo è una grande artefazione, perché chi ha vinto non si limita a controllare i mezzi di comunicazione e informazione, ma determina anche la percezione generale del mondo. Infatti può succedere di tutto. La Terra può essere piatta, i rettiliani sono fra noi e quindi ci sono i segni per identificare quali potenti la Terra hanno il tratto rettiliano, la pupilla che fa sì che li rivela che sotto di loro c'è un lucertolone che ci vuole dominare. Poi ci sono le scie chimiche che ci vogliono avvelenare tutti, e poi ci sono i cattivi vaccini, naturalmente, che fanno diventare tutti autistici. Sempre un grande complotto, sempre tutto messo in discussione. Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. È un momento di grande spolvero per voi del CICAP, non l'avreste mai immaginato? Beh, in effetti è veramente un momento in cui siamo chiamati in causa tutti i giorni, proprio perché, come si vede, le bufale che ci sono sempre state, non sono una novità di oggi, adesso diventano evidentemente un problema che riguarda tutti quanti. Ecco, ricordo che Massimo Polidoro è un giornalista, scrittore, divulgatore scientifico italiano, segretario nazionale e cofondatore del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, che nasceva come un'organizzazione per confutare tutti quelli che dicevano, che ne so, gli spiritisti, che gli spiriti c'erano grandi verità, che c'erano gli UFO, cose che sembravano relegate a una sorta di fantaletteratura, dominio di pochi spostati o fantasiosi. Ma oggi in realtà, Polidoro, voi siete quelli che diventano quasi gli arbitri del confine fra reale e irreale. Ma è così? Addirittura. Ma in effetti, non a caso il nostro nome poi alla fine è cambiato, quella P di paranormale è stata sostituita da pseudoscienze, proprio perché si è allargato enormemente, no, il campo di lavoro e di gioco, tra virgolette. Qualunque cosa è valida, e allora come si fa a distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è? Ti faccio una domanda subito, perché sembra impossibile. Io posso anche pensare, qualcuno può immaginare, che magari esistano scienziati cattivi che danno medicine cattive o che usano l'umanità come un grande terreno di cavie per i loro esperimenti perversi. Ma come fa la gente ancora a pensare che ci possa essere la Terra piatta? Un signore ha costruito un razzo come quelli che facciamo noi bambini, con le bottiglie d'acqua che pompavi l'acqua, poi schizzavi e faceva un razzetto. Dice, andrà a dimostrare che la Terra è piatta. Come possono pensare su quali basi che la Terra sia piatta? Ma adesso questo signore in particolare, Mike Hughes, questo americano che vuole partire col suo razzo che si è costruito in giardino. Ma un razzo a acqua, come quelli che ci giocavamo da bambini. Appunto. In realtà il suo volo è stato fermato, per cui non si sa se e quando mai lo farà. Ma al di là di questo, pare che abbia, come dire, abbracciato la causa della terra piatta, perché non riusciva a trovare gente che gli finanziasse questa impresa, insomma, e siccome i terrapiattisti avevano bisogno di qualcuno che, di un leader avevano bisogno, esatto, di un leader, di qualcuno che prendesse il volo e che non fosse uno dei cattivoni della NASA, che ovviamente non l'hanno mai fatto e sono solo attori secondo costoro, allora questo signore sembrava quello giusto e lui ha detto, va bene, vi dimostrerò che la terra è piatta. Ma un terrapiattista, se prende un aereo, non si accorge che c'è una curvatura dell'orizzonte? Evidentemente no, oppure immagina che quello sia esattamente come deve apparire l'orizzonte, un'illusione ottica. Andiamo avanti, quali sono, diciamo, le più rinomate storicamente, quelle che oggi presentano sorprese di queste fantastiche invenzioni che poi raccolgono anche, mi sembra, un numero cospicuo di seguaci? Le bufale ce ne sono sempre state, tante come sappiamo, e continuano a esserci, no? Prima citavate le scie chimiche, piuttosto che quelle sui vaccini. Sono bufale che hanno conseguenze gravi su tutti quanti, perché se i bambini non si vaccinano più, ecco che il dramma riguarda poi tutti, non solo chi ci crede o chi non ci crede. La stessa cosa per chi, per esempio, discute il riscaldamento globale, che è qualcosa scientificamente accertato, ma che alcuni ancora non accettano, anche perché in qualche modo significherebbe cambiare abitudini, no? E allora meglio immaginare che sia un complotto anche questo. Ce ne sono proprio tantissime, persino per andare poi alla, non siamo mai stati sulla Luna, o piuttosto che gli attentati degli 11 settembre erano tutti una falsificazione voluta dagli Stati Uniti, il presidente Kennedy e così via, insomma, l'elenco è... Diciamo che l'addensarsi ormai di quelle storiche, forse a partire dalle leggende metropolitane, andando avanti nel tempo, creano una vera e propria fantaletteratura che dà una sorta di corposità al fatto che possa esserci veramente un grande complotto che agisce sull'umanità chissà da quanto tempo, che oggi però si esprime anche in maniera a volte abbastanza folcloristica, divertente. Io vedo gli ultimi fotomontaggi, le ultime vicende legate alla politica sono veramente ridicoli. Michelangelo Coltelli, buongiorno. Buongiorno. Butac, it.it, bufale tanto al chilo, che è un blog dedicato appunto alla lotta alle bufale e disinformazione online. Anche voi avete, diciamo, avuto acume di mettervi nel filone giusto. Non farete in tempo oggi a cercarle, a raccontarle, che già ne escono di nuove. Sì, esatto. Purtroppo non ci stiamo dietro. Dimmi quelle fresche di giornata, le ultime due o tre bufale proprio appena prese. Una di stamattina purtroppo è una per me molto grave, rientra nel campo della manipolazione fotografica, perché si vede una schiena di un ragazzo di colore con dei segni come se fosse stato frustato, addirittura tagliato, ed è stata diffusa da pagine social che difendono gli immigrati sostenendo che sia un ragazzo torturato in Libia. In realtà, andandola a cercare, ci rendiamo conto che la fotografia viene da un artista degli effetti speciali nigeriano che si è specializzato negli effetti speciali low cost. Le pagine che la stanno diffondendo però sostengono che invece sia una schiena vera e tutto il resto. Ma che effetto speciale fa vedere la schiena di uno frustato? Il tentativo è di portare acqua al mulino di chi difende l'immigrato in questo caso, e ovviamente si fa male, perché di portare acqua a quel mulino con una fotografia falsa, poi facilmente uno non si fida. Beh, diciamo che nei meccanismi perversi della disinformazia potrebbe essere una strategia mettere una foto palesemente tarocca, poi dire: vedi, quelli che difendono gli immigrati mettono in giro foto false. Non si esce mai da questo Purtroppo circuito. Purtroppo hai perfettamente ragione. Ce ne sono altre, dimmi qualcos'altro di nuovo. Ah, ce ne sono svariate, perché in questo momento stiamo parlando di rimedi pseudomedicina, di rimedi omeopatici. C'è uno studio che sta circolando che sostiene che l'omeopatia è esattamente uguale all'allopatia come qualità di medicina. In realtà lo studio, se si va a vedere, è un sondaggio telefonico fatto da chi usa già l'omeopatia, chiedendo: vi fa bene o vi fa male? È ovvio che chi la usa magari da 10 anni è convinto che faccia bene, non ha nessuna valenza scientifica, però sulla base di questo studio ci sono delle aziende che stanno producendo nuovi prodotti, sempre omeopatici, e sappiamo che tipo di valenza scientifica potrebbero avere. Ma questo è interessante, perché anche oggi si è perso il senso del valore, diciamo, certificato di un sondaggio, di una richiesta di opinione. Quando le persone nei social citano "c'è uno studio che dice", ma lo studio dove? Ma l'ho letto in internet. Si è perso anche il valore di rango rispetto a quello che è uno studio, quello che una volta era una prova scientifica, un argomento di discussione con delle evidenze scientifiche rispetto a un problema. Purtroppo sì, purtroppo si è perso moltissimo, lo vediamo. Guarda, la settimana scorsa, Gianluca, io ho avuto una segnalazione da una mamma che mi ha fatto presente che la maestra del nido le aveva suggerito di utilizzare un prodotto che si trova in farmacia, ma non è un farmaco, su bambino di 10 mesi. Io le ho potuto portare. Per fare cosa? Cosa serviva questo prodotto? È un prodotto, perché cioè, il prodotto è l'argento colloidale, dovrebbe far passare le bronchiti, dovrebbe far passare il mal di gola, cose del genere. Si dice che sia un antibatterico, si usava un tempo l'argento come antibatterico. L'OMS però ci dice che l'argento colloidale può avere un residuo nel corpo che può essere pericoloso e può dare anche dei disturbi, disturbi anche dell'apprendimento e dello sviluppo, nel senso che materialmente può andarsi ad annidare nel cervello in base a dove lo usiamo. Che una maestra d'asilo nido si sia messa a suggerire ai genitori di utilizzare un prodotto del genere, io l'ho trovato tragico. Beh, sai, perché tutto va bene meno quello che appartiene comunque ai grandi schiavi del complotto. Andare in farmacia e dire: mio figlio ha la tosse, datemi una pasticchina, uno spray, una medicina, no, significa alimentare i grandi padroni del mondo. Quindi anche la maestra, avendo letto in internet, sentendosi buona, amerà i gattini, farà soltanto cure naturali, beve acqua e limone tutte le mattine per non farsi venire il tumore, probabilmente fa tutte queste, fa il saluto al sole, farà tutte queste cose qua, quindi si sente in dovere di fare la sua parte di apostolato e far prendere l'argento colloidale a un bambino, avvelenandogli veramente il cervello. Ci fermiamo un istante. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto siamo bombardati da informazioni, internet, i social, la TV, le chat, senza contare i vecchi bar e il passaparola. Per fortuna ci siamo noi, siamo qua apposta a metà giornata per rimettere ordine nelle notizie e per raccontarvi col Giro d'Italia piccole e grandi storie dal nostro paese. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh, sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Melog. Allora, per prima cosa, il succo di limone, avendo una struttura molto simile ai succhi gastrici del nostro stomaco, aiuta ad eliminare le tossine che troviamo nel tratto digestivo e quindi allevia l'indigestione, il bruciore di stomaco e anche il gonfiore. E aiuta anche l'attività intestinale al mattino se lo si beve la mattina. Il limone, dato che è ricco di vitamina C, aiuta anche a prevenire o a combattere influenza e raffreddori ed è anche ricco di ferro e oltre a questo praticamente migliora la capacità di assorbire il ferro dagli altri alimenti che si mangiano. Consente anche di dare una spinta immediata alla giornata migliorando l'umore e aumentando l'energia. I limoni sono anche una fonte ricca di antiossidanti che prevengono i radicali liberi, chissà quante volte li avrete sentiti, e quindi se bevete succo di limone probabilmente vi aiuterà nella prevenzione di rughe e di macchie durante l'invecchiamento, quindi sicuramente è un ottimo metodo per rimanere sempre... Pensa un po' se l'avessi saputo prima, avrei mangiato limoni da quando ero nato. Oggi sarei un dio, starei benissimo, giovanissimo, non avrei nessun acciacco, nessun malanno. Ma perché non abbiamo pensato prima che l'acqua al limone risolve tanti problemi? Pensate che ci sia ironia in questo. Guardate questo canale YouTube, questo video di Antonio Renna, che non so chi sia bene, comunque parla come se fosse uno scienziato dell'acqua al limone, ha avuto 1.500.000 persone che l'hanno visto. E ancora ci sono persone che la mattina si spremono il limone nell'acqua calda e se lo bevono. Escono di casa pensando che con quello hanno risolto ogni problema con la loro salute. Ma abbiamo sentito poco fa una maestra d'asilo che dice alle mamme: date l'argento colloidale ai vostri bambini che staranno meglio, che qualcosa potrebbe avvelenarli. Abbiamo parlato noi qualche settimana fa delle mamme che non si vogliono far tagliare il cordone ombelicale. Stanno lì con questo impacco di placenta sottosale, così non interrompono l'aura del bambino, e guai se qualcuno prova a tagliarglielo, minacciano denunce. Beh, è un bel momento che stiamo passando. La cosa paradossale, noi pensavamo che l'avvento della rete avrebbe innalzato il livello medio del sapere. Ci sarà una grande condivisione, dicevamo, finalmente i saperi diventeranno di tutti, non ci saranno più presidi del sapere chiusi, finalmente si evolverà l'umanità, e questa è l'evoluzione. Si è evoluta la parte peggiore dell'umanità, quella che non ha ancora strumenti, ma nemmeno penso propri personali per evolvere, perché crede preferibilmente in ciò che non c'è sforzo nel credere, che è la fantasia, che è l'illusione, che è l'aspetto magico della realtà. In questo uno scienziato, che probabilmente in altri tempi avrebbe passato la sua vita a fare ricerca e a fare lezioni universitarie, a scrivere libri su quello che è l'oggetto della sua ricerca, è diventato una sorta di elemento simbolo del potere cattivo che vuole togliere il bene della scelta all'umanità. E costui è Roberto Burioni. Roberto Burioni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Gli ascoltatori. È il professor ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ha pubblicato l'ultimo suo libro La congiura dei somari, perché la scienza non può essere democrazia. Rizzoli, che finalmente si è stancato di fare pubblicazioni scientifiche e è salito proprio, cioè lei è entrato in pieno ormai nel personaggio che gli hanno appiccicato addosso. È un libro provocatorio dal titolo, perché i somari avranno iniziato a ragliare ancora più forte se lei scrive un titolo del genere. Beh sì, però non si può continuare a stare in silenzio di fronte a questo degrado. Il mio impegno non è nato per caso, è nato perché io, grazie a mia figlia che adesso ha 6 anni, ho toccato con mano l'ignoranza dei genitori e la incredibile sfiducia nei confronti di qualcosa che ha fatto solo del bene, come i vaccini, e anche i pericoli che tutti potevano correre a causa di questa disinformazione. E questo è molto grave, perché per l'appunto con la salute non si scherza. Un conto è magari leggere l'oroscopo e crederci per le questioni sentimentali, questo non c'è nulla di male, ecco. Però nel momento in cui noi ci affidiamo a cose magiche che non hanno alcuna provata efficace per difendere o custodire la nostra salute, corriamo veramente un grosso rischio, e questo è bene che la gente lo sappia, ed è bene fare capire molto chiaramente a tutti che essere somari nel campo della salute, il somaro è quello che pensa di sapere le cose senza averle studiate, praticamente come se io pretendessi di costruirmi una casa da solo, ecco, io non so fare le travi, la casa cadrebbe addosso a me, forse cadrebbe addosso anche a qualche però parte. non so se lei ha avuto questa percezione. Io vedendolo da osservatore, osservando, seguendo le sue battaglie, le reazioni alle sue battaglie, quanto lei sia diventato una figura simbolo della più bieca ottusità, per paradosso, una persona che difende la scienza, che è, diciamo, il meccanismo che ha fatto sì che oggi le persone possano vivere meglio di come vivevano anche soltanto 200 anni fa, è diventato invece il simbolo dell'oscurantismo. Ma non c'è qualcosa di più rispetto alla semplice supponenza? Io ci vedo sotto una sorta di spirito quasi religioso, come se stia nascendo una nuova religione che comincia a avere comunque i suoi aspetti demoniaci, che dico appunto i Burioni, tutti quelli come lui, anche io mi ci metto, perché figuriamoci, mi prendo tutta la mia dose di cattiveria addosso, ma la prendo volentieri. Mi è stato detto se tu hai il DNA marcio stai zitto, perché ho detto guardate che autistici ci si nasce, non è che ci si diventa dopo. Se vi nasce un figlio autistico c'era qualcosa già comunque in quello che avete trasmesso a vostro figlio, che ha in parte determinato il suo autismo, capito? Solo per questo, ecco. Ma da cosa è determinata questa cosa? È una grande religione che nasce attraverso la rete e che tutti hanno diritto di parola e diritto di opinione, quindi questo ha abbassato il livello medio della qualità delle opinioni? Qual è secondo lei la risposta? Non lo so, io questa è una domanda che bisognerebbe fare a un sociologo, a uno storico, e non a uno come me che si occupa di cose che sono paradossalmente molto complicate, ma allo stesso tempo molto più semplici di questi aspetti, come i virus, i vaccini e le malattie infettive. E da un lato, secondo me, c'è una perdita di fiducia sicuramente nei medici, e dall'altra c'è anche questa possibilità che viene data a tutti di parlare. Ecco, proprio per questo io ritengo che sia più importante oggi che in passato che gli scienziati, che i medici, che chi conosce le cose scenda nella rete e dica come stanno, perché da un lato alla fine chi le ha studiate le cose sa raccontarle meglio, rem tene verba sequentur, dicevano i latini, cioè se sai le cose le parole ti vengono, e dall'altra io sono giunto alla personale convinzione, che è solo una convinzione, che quando si lascia libero uno spazio questo viene occupato da tutti questi somari che parlano di cose che non conoscono. Il grosso paradosso però è che gli scienziati dovrebbero avere il loro tempo, l'energia dedicati a studiare, immaginare, pensare, sperimentare quello che può essere fatto in più. Adesso purtroppo la scienza deve ridimostrare nuovamente quello che su cui è già sembrava abbastanza tranquilla e sicura. Si sta ritornando indietro, si perde un sacco di tempo e un sacco di energie, secondo me. In realtà noi dobbiamo adattarci al mondo che cambia, non possiamo farlo tornare indietro, e se questi nuovi, appunto, mezzi di comunicazione, questi nuovi ambienti ci sono, dobbiamo fare del nostro meglio per sfruttarli. Io da scienziato devo dire che internet mi fa risparmiare una quantità di tempo ma figuriamoci, che mai tornare non puoi indietro. Immaginare. Io quando ero ragazzo fare una ricerca bibliografica voleva dire perdere 3 giorni a fare fotocopie dentro una biblioteca. Ora la faccio in 5 minuti dal mio studio e il tempo posso dedicarlo a leggere poi i lavori, a studiare, appunto, a fare. Quindi non tornerei assolutamente indietro. Diciamo che internet e tutte queste cose hanno, ne ho detta una perché è comprensibile, ma ce ne sono mille altre nel mio campo, avanzamenti tecnologici ci permettono di fare cose ma su questo nessuno consiglia che sia scienza anche questo. La scienza non è soltanto questo, pure è scienza quello che tutti usiamo. Avere anche un telefono in mano per scrivere scempiaggini lo devi, perché ce l'hai perché alcuni scienziati hanno studiato e lavorato, e sono gli stessi che poi ti hanno anche fatto i vaccini, perché non è che il meccanismo è diverso. Senta un attimo, Michelangelo Coltelli, E puoi sottoporre al professor Burioni qualcuna delle bufale in campo medico, clinico, sanitario, di quelle che, diciamo, hai sotto mano, più calde, più pronte a essere discusse? Rimaniamo in, diciamo, in stagionale e sempre nei problemi dell'inverno, bronchiti e altro. Una cosa che oggi va di moda moltissimo e il professor Burioni sa, credo che non ha nessuna base scientifica, sono le famose terapie del sale, le grotte del sale, le lampade di sale che vengono propinate a genitori con bambini appunto che hanno magari la tosse o cose del genere, costano tanti soldini e la scienza, quella che ho guardato io non sono uno scienziato, il professor Burioni lo è, si dice che non servono materialmente a niente, però costano tanti soldi. Cioè, la lampada di sale fa una bella luce, carina, se te la regalano non è brutta, io ce l'ho vicino al comodino, ma mica perché mi fa bene, mi piace quella lucina arancione, ma fine per quello. Purtroppo invece viene venduta dicendo che ha delle proprietà miracolose e che trasformerà vostro bambino in un bambino che non avrà mai più la tosse. Molti studi, uno australiano sostiene che invece queste stanze del sale, la lampada se l'hai sul comodino ancora, ma le stanze del sale, proprio perché tanti bambini con virus e batteri in circolo ci vengono messi dentro, diventano delle stanze come se fossero delle piccole zone di batteri dove tu entri e anche se eri sano esci che i batteri ormai te li sei presi. Professor Bruno, hai capito? Si mettono un gruppo di bambini col raffreddore sotto sale e così guariscono. Io sono sincero, questa cosa la prendo ora perché è veramente molto... Bambini in salamoia per farli guarire. Ecco appunto... Il sale serve a conservare i cibi e non bisogna esagerare perché altrimenti fa male per la pressione del sangue. Però questa è una cosa nuova, ecco, che so adesso da Michelangelo, che è bravissimo nel combattere queste bufale. E purtroppo, ecco, io devo dire che mi indigno particolarmente quando queste bufale vengono propinate dai miei colleghi medici. Che ci sia una parte della società che crede a cose che non hanno alcun fondamento, io ritengo che lo si debba accettare. Alla fine io penso che i filtri d'amore ci saranno sempre, c'erano nell'antichità, ci sono oggi, e non importa secondo me quante diavolerie inventeremo, ma qualcuno che crede ai filtri d'amore lo troveremo sempre. Ecco, dove mi dispiace è nel momento in cui i filtri d'amore vengono prescritti da un medico e venduti in farmacia. Questo mi indigna perché viene data una patente scientifica a qualcosa che scientifico non è. E questo è il vero punto, ha toccato il professor Burioni, poi magari riprendiamo nella parte successiva della trasmissione. In realtà è vero, sì, il ciarlatano può vivere e prosperare e allegramente vendere i suoi filtri d'amore. Il problema è quando si crea il dubbio che esistano due scienze, una scienza buona e una scienza cattiva, che la scienza buona è quella, guarda caso, che va sempre contro quello che è frutto comunque di un'analisi, di un procedimento e il risultato di un'evidenza. Ci fermiamo un istante, tra poco. Il video dell'estate per quello che riguarda le fake news su di me, la Lamborghini. Questo video era montato in modo straordinariamente efficace. Nei giorni scorsi è apparsa una foto ed è la foto dei funerali di Totò Riina o dei presunti funerali di Totò Riina. Guardate chi c'era a dare l'ultimo saluto a Totò Riina. Questa è Luciana Boldrini, sorella minore del presidente della Camera Laura Boldrini, e gestisce 340 cooperative che si occupano di assistenza agli immigrati, ma nessuno ne parla ovviamente. La sorella di Laura Boldrini, che non si chiamava Luciana, è morta. Avete sentito? Questo era Matteo Renzi che spiegava alcune fake news particolarmente elaborate e divertenti, di cui anche lui era protagonista, lui che guida una Lamborghini, un bellissimo fotomontaggio, Renzi al volante Lamborghini, poi funerali di Totò Riina che non ci sono mai stati, in cui c'era appunto la Boschi e la Boldrini, la famosa storia della sorella la Boldrini che gestisce non so quante cooperative, ma insomma c'è fantasia, c'è inventiva, sono talmente madornali questo tipo di bufale politiche che in realtà sembrano incredibili, ma il fatto siano incredibili non toglie che qualcuno ci creda o non toglie che qualcuno comunque le faccia circolare e quindi diventano comunque una realtà. Walter Quattrociocchi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Walter Quattrociocchi lavora a Ca' Fosca, all'Università di Ca' Fosca, il laboratorio Data Science and Complexity. Ha scritto Misinformation, guida della società dell'informazione e della credulità con Franco Angeli, assieme a Antonella Vicini. È, diciamo, un ricercatore che maggiormente si applica con criterio scientifico all'analisi delle bufale. Ma queste ultime bufale di tipo prettamente italiano, è possibile che abbiano delle radici così lontane che le pensino addirittura i servizi reti russi per creare scompiglio nel nostro paese? O è qualcuno che si mette lì, non c'ha niente da fare e si diverte con i fotomontaggi? Ma diciamo che la situazione, come al solito, è sempre un po' più complicata di poi come viene raccontata. Nella fattispecie, fondamentalmente, sì, è vero, ci sono questi tentativi di ingerenza, ma il punto è che non sembra che siano così, come si dice, così profondi. Esiste un filone sui social che ne approfitta sfiducia, della forte acredine rispetto al mainstream, rispetto alle istituzioni, rispetto alla politica, per rubare click. Ma questo è, diciamo, in qualche modo la punta dell'iceberg rispetto a tutta quanta la problematica, che invece è proprio il cambio d'accesso alla conoscenza senza più mediazioni. Cioè, questo è il vero problema, infatti hai ragione, questo è il vero problema. Sono tanti a poter parlare, tanti hanno gli stessi strumenti di diffusione e non c'è più un criterio razionale di discrimine, non c'è più un mediatore. Esattamente, la distruzione dei corpi intermedi. Il problema è che una parte dei corpi intermedi sta cercando di reintrodurre, di riproporre, di imporre un'autorevolezza, senza considerare il fatto che l'autorevolezza è un fattore di servizio, non di imposizione, che non viene riconosciuto. Questo è un po' e c'è un po' la tendenza, un po' di tutti, quello che poi porta a credere alle bufale, di interpretare un po' la realtà e i fatti come ci fa più comodo, insomma. Ma secondo te c'è una mente raffinata? Perché io penso, non so, la bufala di Renzi che guida la Lamborghini fa ridere, cioè vederla è divertente perché starebbe bene in un programma comico, quei programmi di mezza serata in cui ci sono i comici e mandano delle prese in giro, i fotomontaggi, come Risatissima Show, quelle cose lì. E come può uno pensare che in realtà qualcuno realmente si possa confermare, maturare o cambiare un'opinione politica vedendo quella cosa lì? Ma fondamentalmente sui social tutto è molto leggero, quindi passa senza troppi filtri, senza troppe mediazioni. Ovviamente è un'informazione, un pezzo di informazione che va ad alimentare una sfiducia che già esiste, cioè nel senso hanno rubato, rubano, non si interessano di nessuno, sono disonesti, cavalca una narrazione che in qualche modo fomenta l'opinione pubblica, ma non è diverso da quelli che dicono che per risolvere il problema delle fake news ci inventiamo l'algoritmo della verità o col fact checking risolviamo tutto. Sembra una fake news a sua volta, dire questa cosa qua, secondo me, l'algoritmo della verità, una sorta di ente superiore e artificiale che decide cosa è vero e cosa è falso. No, e oltretutto è completamente improponibile, cioè chi parla di queste cose qua non ha la minima idea di logica, di informatica, cioè parla veramente a caso. Quindi diciamo che in qualche modo siamo un po' tutti vittime di questa tendenza ad acquisire le informazioni e a proporre cose che non sono plausibili. Ma allora, qual è il risultato? Che il sistema che abbiamo creato, come fosse un grande golem, si rivolta contro il suo creatore e ci sta mangiando tutti. Esattamente è un po' questo. Cioè la mancanza di buonsenso e la mancanza di in qualche modo di spirito di servizio, cioè l'elite ormai non è più concepita come un qualcosa che fa un servizio al cittadino, no? È in qualche modo è un potentato che va in qualche modo stabilito e consolidato. Pure nel caso dei vaccini, il fatto di urlare all'imbecille che non vaccina, noi abbiamo dei risultati che pubblicheremo a breve, non ha fatto altro che aumentare la polarizzazione, cioè la polarizzazione sul tema. E cosa interessante, si lega ad un altro risultato che pubblicheremo a breve, di più è la polarizzazione degli individui, più è alta la probabilità che quell'argomento che polarizza gli animi poi diventerà argomento di fake news. Quindi è in qualche modo un cane che si morde la coda e va fermato dalla testa. Quindi se tu crei dei martiri sono quelli che si prendono le invettive degli scienziati, delle persone razionali, in realtà rafforzi il portato del messaggio. Quindi vedi, la reazione è forte perché siamo dalla parte della ragione. Esattamente. Beh, questo è terrificante. A me non preoccupa tanto nella politica, e poi la politica secondo me sono ammortizzatori per poi riequilibrare, o poi la politica è sempre basata comunque su delle narrazioni che avevano sempre degli aspetti fantastici, ma mi preoccupa più sul fatto della salute, come diceva giustamente Burioni. I veri cambiamenti poi si hanno non tanto nelle oscillazioni del pensiero politico per le foto, per i fotomontaggi, ma quando questo entra in maniera radicale nella gestione dei bambini, la gestione della salute, gli strumenti sociali. Non trovi che questo sia veramente l'aspetto più importante? E quella è la cosa più grave, lì veramente ha un senso, cioè lì veramente c'è l'effetto fake news, ma non inteso come la vulgata che dobbiamo combattere il bene contro il male. Lì c'è un problema di fatica, di adeguamento della società contemporanea con i nuovi strumenti all'accesso alla conoscenza, cioè si mette tutto nello stesso calderone e non c'è qualcuno che si occupi di comunicare quel tipo di problematiche, mentre va potenziato di parecchio la comunicazione scientifica. Io in questi periodi sto seguendo un pochino, sto cercando di fare un po' il censimento delle varie attività di divulgazione scientifica, comunicazione scientifica, e ci sono dei progetti in Italia che proprio portano la scienza nelle scuole, dalle elementari, spiegano il metodo scientifico e hanno un successo clamoroso. È esattamente lì che dobbiamo intervenire, non urlando e brandendo anatemi contro il pensiero eretico. Bisogna educare, bisogna portare all'educazione e soprattutto non vendere l'errore clamoroso che poi sarà come un boomerang, sarà vendere il metodo scientifico come infallibile. No, questo però gli scienziati veri non lo dicono mai, dicono la scienza è questo, è un metodo, però è un metodo che finora ci ha permesso, diciamo, di progredire, di studiare, di lavorare. Chiaro, sennò diventa un'altra religione, ma tu pensa che abbiamo dovuto sostenere delle battaglie, solo perché abbiamo usato dire magari al posto dell'ora di religione o a seno religione bisogna mettere nelle scuole un'ora di scienza, ancora il cammino a fare tanto. Grazie Walter Quattrociocchi, ci sentiamo alla prossima.